Incontri di Gianfranco Fabi. Notte di Imagine, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica a quanto ci ascoltano. Buongiorno a Stefano Landi. Buongiorno. Stefano Landi ha scelto Imagine, una canzone di John Lennon che evoca un po' il futuro, guardare avanti al futuro, immaginando che sia un futuro migliore, esatto. Un futuro che comunque è nelle nostre mani. Prima di vedere chi è Stefano Landi, come immagina il suo futuro? Ah sì, mi piace pensare ad una vita appunto creativa ancora, no? Credo di aver fatto qualcosa nei miei primi 30 anni di attività, e mi auguro che il futuro sia altrettanto interessante. Allora, Stefano Landi, imprenditore della società Landi Renzo, quindi una società familiare, da qualche settimana presidente dell'Associazione Industriale di Reggio Emilia, quindi anche con un impegno associativo nell'ambito imprenditoriale. Imprenditore, diciamo così, perché? Come mai? Ah, nel mio caso direi all'inizio una scelta naturale, obbligata, in quanto appunto l'azienda era stata fondata da mio papà e da mia mamma nel 1954, per cui nel momento in cui in particolare mio padre morì giovane nel 1977, io così mi sono ritrovato, ecco, a fare il piccolo imprenditore. Proprio... Quindi un dovere di portare, esatto, avanti quella, esatto, che è stata l'idea, l'iniziativa di suo padre, in un campo che è quello dell'alimentazione a GPL metano per i motori automobilistici. Quindi un campo forte crescita in questo periodo. Sì, diciamo che negli ultimi anni c'è stata una crescita considerevole a livello mondiale, proprio perché è stato riconosciuto al GPL metano quella caratteristica di carburante a migliore impatto ambientale rispetto ai tradizionali. Quindi un'industria che si inserisce un po' nell'area della meccanica, che è per molti aspetti naturale nella zona appunto dell'Emilia, sì, certo, vicino a grandi fabbriche di grande nome come la Ferrari, certo, la Ducati, ma in cui ci sono anche molte imprese di componentistica, di accessori, certo, che compongono appunto un distretto industriale molto avanzato. Questa, sì, la sua azienda fa parte di questa realtà. Sì, certamente. Sì. E quindi può anche fruire dei benefici di una zona in cui la tradizione meccanica è molto forte. In questo senso c'è, diciamo, una possibilità di crescita all'interno di una struttura come quella italiana, che per molti aspetti ha qualche difficoltà. Sì, no, certamente questo è un passaggio assolutamente importante. Credo che dobbiamo ritornare a pensare al manifatturiero. Certamente è un manifatturiero diverso rispetto a quello che ci ha fatto arricchire, in senso industriale naturalmente. Quindi un manifatturiero più di qualità, più con valore aggiunto, però ecco, le nostre tradizioni sono, io penso che appunto grazie alle nostre tradizioni, grazie dal punto da cui veniamo, anche nel futuro dovremo appunto lavorare ancora sull'industria. Lei, ecco, nella sua prima relazione come, sì, presidente degli industriali di Reggio Emilia, ha ricordato una frase dell'avvocato Agnelli: tutto, sì, quello che si fa si può sempre fare meglio. Esatto. Quindi l'innovazione è sempre possibile. Sì. Sì, io credo che mai come in questo periodo, che è sicuramente un periodo di grande discontinuità, nel senso che la crisi senza precedenti che stiamo ancora attraversando, ma che è iniziata nel 2008, ci ha portato a fare delle, e ci porta a fare delle scelte di discontinuità, e quindi sicuramente l'innovazione, lo sviluppo tecnologico è un aspetto imprescindibile per poter andare avanti, insomma. Ecco, lo sviluppo tecnologico è complesso, l'Italia si confronta soprattutto in settori avanzati con grandi multinazionali, con grandi paesi, con grandi mezzi. l'intuizione, un po' la capacità creativa italiana comunque può avere uno spazio. Sì, certamente, non c'è dubbio che la dimensione, soprattutto in questi ultimi anni, è diventata una caratteristica importante, e d'altra parte l'Italia si basa sulla piccola e media impresa, quindi sotto un certo punto di vista questo può essere un limite, però è anche vero che le imprese, diciamo piccole e medie, hanno avuto la capacità, e secondo me l'avranno ancora di più in futuro, di adeguarsi al mondo che va avanti, e quindi le piccole multinazionali, le multinazionali tascabili, no? Certo. Come vengono definite le nostre imprese, hanno la capacità e l'estro, l'intuito dell'imprenditore per essere competitivi. Quali sono i suoi progetti come azienda, come impresa nel prossimo futuro? Come vede i possibili passi da compiere? Sì, beh, direi che allora, prima di tutto noi siamo passati da un'azienda, diciamo, familiare a un'azienda pubblica, perché dal 2007 sono esattamente 3 anni che siamo quotati alla Borsa di Milano. Quindi il futuro credo che sia un futuro nel nostro settore interessante, in quanto penso che l'attenzione per l'ambiente e quindi le energie, certo, tra virgolette verdi, saranno sempre di più al centro dell'attenzione, al centro delle scelte politiche strategiche dei vari paesi. È soddisfatto del passaggio nella borsa, la quotazione azionaria? Non è stato per qualcuno, si è un po' pentito, lei no? No. No. Guardi, per me è stato un percorso veramente molto, molto interessante, stimolante, e anche un momento di soddisfazione personale, perché poi insomma nascere in una piccolissima impresa e familiare, riuscire a portare l'impresa sul mercato è stato sicuramente un passaggio interessante. L'azienda è anche stata proprio ed è oggi dimensionata per questa dimensione. Per dare anche qualche soddisfazione agli azionisti. Sì. Sì, sì, assolutamente sì, anzi è necessario. Anzi è necessario appunto per crescere. Ecco, in questo settore indubbiamente le possibilità di crescere ci sono. Quali sono i suoi competitori, quelli con cui si confronta mercato? Allora, ci sono diverse imprese. Allora, diciamo che questo settore nasce in Italia, quindi possiamo dire che questo è un settore veramente made in Italy. Quindi i principali competitor sono italiani, c'è un qualche olandese, un qualche americano e poi tanti piccoli a livello locale. Insomma. Comunque la concorrenza vivace, che fa bene al mercato. Sì, direi di sì, senz'altro. Incontri. Con queste note di John Lennon, di Imagine, riprendiamo il nostro colloquio con Stefano Landi, presidente della Landi Renzo, una delle aziende leader in Italia nella produzione di impianti per GPL e presidente da qualche settimana delle associazioni industriali di Reggio Emilia. Presidente peraltro anche della pallacanestro sì, reggiana. Come sì, mai sì, questa passione? Sì, una grande passione in effetti che partita non da tantissimo, diciamo da una decina d'anni fa. Prima... Ma non ho mai giocato a pallacanestro? No, non ho mai. Io sono sempre stato, ho sempre seguito molto lo sport, ma da dirigenza, da poltrona, più che lo sport praticato. Beh, da tribuna, da palco, da tifoso forse. Da tifoso. Sì. Ecco, quindi però la pallacanestro è una passione sportiva e anche sponsor della... No, non siamo sponsor e sono presidente e proprietario della società. A Reggio Emilia c'è una grande tradizione, quindi abbiamo sempre un grande seguito di pubblico e è divertente. A me come sport piace moltissimo e quindi spero di portare avanti ancora per tanto tempo. Beh, è uno sport in cui c'è una leadership incontrastata, quella di Siena in questo momento. Ah, certo. Però competere è sempre una cosa positiva. Certo. Così come si compete anche, ritorniamo qui sul fronte aziendale, proprio nell'ambito economico. Una competizione, già abbiamo ricordato nella prima parte, in questa fase è molto complessa, condizionata anche dalla crisi internazionale. Lei ha detto che ha prospettive sicuramente positive per il futuro. Come vede lo scenario italiano, cioè l'impresa all'interno della realtà italiana, come le vede? Ma guardi, io naturalmente debbo e voglio essere ottimista. Abbiamo ricordato anche prima, credo che l'imprenditore italiano abbia tutte le conoscenze e le capacità per continuare a recitare un ruolo da protagonista. Mi pare che stiamo vivendo a livello, ma questo non da ieri, ma da ieri l'altro e da tempi passati, stiamo vivendo forse più un problema paese, nel senso che certo. Si sta parlando anche in questo ultimo periodo molto di burocrazia, no? Quindi si sta cercando di togliere un po' di difficoltà, perché in effetti fare imprese in Italia oggi è diventato difficile e complicato rispetto ai nostri cugini europei, certo. Quindi questo è un aspetto di cui c'è un peso della burocrazia, c'è un peso del fisco, c'è un peso della complessità, si fa impresa nonostante lo scenario interno esterno, ma si continua a fare con passione. Lei nella sua relazione, appunto, da presidente della sezione industriale di Reggio Emilia, ha puntato molto sul capitale umano, sul fatto di valorizzare le persone all'interno dell'azienda, e questo è un fattore vincente. Sì, mai come in questo momento, ripeto, un momento di discontinuità, bisogna innovare. Credo che sia nella caratteristica del giovane quella proprio di spingere verso l'innovazione. Quindi l'uomo ancora una volta al centro della società, al centro dell'impresa. Ecco, competere con le idee è proprio il titolo della sua relazione. Sì. Competere con le idee vuol dire avere la possibilità di avere idee nuove in campi anche tradizionali, dare spazio appunto alla creatività. Forse in Italia si dà poco spazio al merito. Sì, e come dicevo anche, perdere la paura di sbagliare. Cioè, è fondamentale per vivere appunto una vita creativa, bisogna che perdiamo la paura di sbagliare. Questo per esempio è una caratteristica che in altri paesi, prima di tutto negli Stati Uniti, è molto forte. Cioè un imprenditore magari gli può capitare anche di sbagliare una volta, però ecco, è sicuramente non è un fallito, è uno che ci ha provato e ha sbagliato, ma la prossima volta ci riuscirà. E quindi la possibilità appunto di riprendere sempre un cammino. Come vede in questa prospettiva i giovani che magari chiedono di entrare in azienda, che quando entrano si trovano un po' spaesati, come vede i giovani di oggi? Ma guardi, io sinceramente li vedo più preparati rispetto ai giovani della mia generazione. Cioè, oggi ci sono giovani che non hanno problemi, forse anche perché sono più preparati con le lingue rispetto a quanto noi non lo fossimo, quindi pronti a prendere la valigetta e a girare per il mondo. Quindi insomma, io vedo dei ragazzi positivi. Ecco. Cosa dice un giovane che entra in azienda per la prima volta? Naturalmente, forse è la stessa cosa che dicevano a me, cioè di portare pazienza, cioè di non riusciamo a cambiare tutto in una settimana, bisogna fermarsi ogni tanto, pensare e così. Ma lei, quando entra un giovane, capisce subito se può far carriera, se può essere utile all'azienda magari senza far carriera, perché tutti possono essere utili? No, diciamo che ho affinato un po' l'occhio in questi anni, ecco. Però no, perché poi voglio dire, tante persone danno non tanto per quello che hanno, ma anche per quello che si trovano a livello ambientale, no? Per cui una grande responsabilità per il buon inserimento di un giovane viene dall'azienda. Ecco, i valori che l'azienda deve trasmettere sono i valori appunto del merito da una parte, ma anche del gioco di squadra. È possibile realizzare un gioco di squadra pur all'interno di quelle che devono essere delle procedure aziendali stabilite, definite? Sì, credo che oggi sia assolutamente fondamentale e credo che tutte le aziende più importanti, ma non tanto le più innovative, sicuramente si basino sul gioco di squadra, ecco. Quindi è assolutamente importante preparare questi team. È chiaro che in tutte le squadre c'è il fuoriclasse, ci deve essere quello che fa il gol, ma poi sono tutti gli altri che lo mettono in condizione di fare il gol. Ecco, in questa prospettiva è importante anche il rapporto con lo scenario esterno, in primo luogo con gli enti locali. Certo. Lei nella sua relazione parlava di un'area vasta, un'area di là della logica del comune, della stessa provincia, guardare alla regione, cercare delle collaborazioni, delle sinergie, delle possibilità di collaborazione operativa con tutte le realtà anche territoriali. In questo senso il cammino da fare c'è, è abbastanza impegnativo anche. Sì, io appunto, come dicevo prima, la dimensione è comunque, non dico che è un problema, dico che è una caratteristica di cui tener conto, per cui penso che noi oggi dobbiamo ragionare e dobbiamo lavorare in un concetto di area vasta, area in cui troviamo appunto gli aeroporti, le università, i centri di ricerca. Ecco, quindi il concetto di provincia, come dicevo nella mia relazione, ormai è un concetto legato al cuore delle persone, insomma, ma credo che da un punto di vista invece industriale e anche sociale dobbiamo incominciare a ragionare. Anche perché guardando un po' forse dall'alto, l'amico Aldo Bonomi parla di città infinita, la realtà anche emiliana, la stessa via Emilia ormai è una unica, senza soluzione di continuità, un'unica realtà industriale, operativa, sì, di capannoni, di iniziative. Quindi è una logica che è nata un po' spontaneamente, ma che si è sviluppata indubbiamente al di là appunto dei confini territoriali. Sì. Quindi in questo senso ci vuole una politica anche più vasta. Le regioni sono in grado di, non tanto di programmare, che vuol sempre dire magari mettere una camicia di forza, ma di valorizzare poi le singole risorse. Io penso di sì. È importante, tra l'altro, in particolare nella nostra regione, in Emilia-Romagna, appunto sono stati creati anche questi tecnopoli, no? Per cui oggi parliamo ancora di province, poi magari personalmente spero un domani parlare di aree vaste, però ad ogni diciamo area è stato affidato, secondo a quelle che sono le caratteristiche dell'industria, a quelle che sono le caratteristiche, un settore prioritario, diciamo così, da portare avanti. Quindi credo che le regioni possano svolgere un ruolo importante. Ecco, noi tra l'altro abbiamo già la fortuna di collaborare in senso abbastanza stretto con la provincia di Modena, che peraltro è una provincia che ha molte affinità, no? Ci assomigliamo molto, abbiamo un'industria meccanica molto forte e abbiamo la stessa università. E quindi questo è un altro collante significativo. Al di là appunto dei confini strettamente amministrativi provinciali, fatto appunto Reggio Emilia, Modena, sono praticamente uniti, c'è una concorrenza che però può diventare cooperazione. Sì, assolutamente, certo. Ecco, in questa prospettiva forse appunto diceva le province vanno un po' superate, vanno viste in un'ottica un po' regionale, anche le regioni devono coordinarsi a livello politico, la prospettiva può essere quella di, non dico della Padania perché evoca dei richiami politici che forse non sono adatti, però indubbiamente certo, di guardare un po' il territorio in maniera più costruttiva. In questo senso anche le associazioni industriali hanno un compito un po' di superare la loro visione un po' provinciale. Infatti di questo se ne sta parlando, insomma, è un argomento sicuramente caldo, ecco. Certo. Quindi dare più potere alle associazioni regionali, magari senza toglierlo a quelle provinciali, però aumentando il potere complessivo, se fosse possibile. Ma adesso vedranno un po' i nostri dirigenti, dalla presidente Marcegaglia, insomma, comunque è chiaro che è un discorso importante. Ecco, lei complessivamente, ci avviamo un po' verso la conclusione, come vede il futuro del nostro paese? Abbiamo detto un futuro ancora legato all'industria, un futuro ancora legato alla creatività che ha grandi potenzialità, indubbiamente dobbiamo un po' lasciare da parte le tentazioni del declinismo, di chi dice che ormai siamo in declino, non è vero. No, non è vero. È chiaro che d'altra parte dobbiamo anche appunto vedere bene e con lucidità quella che è la nostra realtà. Purtroppo il nostro è un paese che ancora, tra le altre cose, viaggia a due velocità. Non c'è dubbio che c'è una differenza importante tra quello che è appunto lo sviluppo dell'Italia del Nord e quello che è lo sviluppo dell'Italia del Sud. Credo che questa decisione appunto della Fiat di riportare in Italia e in un'area così particolare come quella di Pomigliano la produzione automobilistica è un bel segnale, insomma, da parte dell'imprenditoria, dell'impresa. Ecco, mi sembra che sia un bel segnale anche il fatto che lei appunto dall'industria di Reggio Emilia metta in primo piano anche l'esigenza di una crescita complessiva del paese, di vedere il sud come risorsa, come opportunità. Assolutamente sì, certo. Quindi una capacità anche del paese di mettere a frutto delle iniziative positive al di là appunto delle logiche territoriali, delle logiche strettamente aziendali, guardare un punto con fiducia costruttiva, con la logica che abbiamo detto, la logica delle risorse umane, la logica della persona. Certo. Ecco, lei insiste molto su questo fronte. Sì. Come concretamente, cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità di premiare anche chi merita, chi ha capacità. Questo senz'altro alla base, poi credo che ci debba essere da parte di tutti un impegno un impegno sociale anche che forse negli ultimi anni si era un po' perso, no? Quindi torniamo un po' a pensare a noi stessi come persona al centro appunto di una collettività, no? Credo che la crisi poi porta a trovare certo. O a ritrovare delle cose nuove, no? E quindi io ho parlato da un punto di vista così industriale di umanesimo tecnologico, quindi ecco un qualcosa che magari riusciamo a ritrovare dei valori che avevamo un po' smarrito. E lei ha parlato anche di distretti culturali, di capacità di fare cultura, tra l'altro sì. C'è anche un suo impegno nell'ambito dei teatri, nell'ambito delle iniziative musicali, mi sembra. Sì, no, credo che tutti noi, a seconda del nostro ruolo nella società, abbiamo così il dovere di impegnarci, e quindi in tutti i campi, dalla cultura prima di tutto, direi, perché grazie alla cultura possiamo veramente andare avanti, insomma. Cioè una cultura che è un segno di umanità, esatto. di visione complessiva, di guardare il mondo a 360 esatto. gradi e di guardare un po' anche al proprio interno, i propri esatto. sentimenti, le proprie emozioni. Un ultimo messaggio che vuole lasciare guardando un po' il futuro, poi magari sentiamo ancora qualche nota di John Lennon. sì, esatto, partendo da John Lennon, no? Quindi abbiamo detto Imagine, io immagino appunto un futuro migliore, sono di questo sono sicuro, ho anche due figli e quindi voglio lasciare come generazione un qualcosa di positivo che i giovani possano portare avanti, ecco. Quindi, ma abbiamo tempo anche noi di costruire qualcosa, ancora comunque, sì, ancora sì, lasciando ancora ai sì. nostri figli e ai nostri nipoti comunque qualcosa sì. di buono. Io sì. ringrazio Stefano Landi grazie di essere stato con noi questa mattina, ringrazio Carmelo Loricella in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica con le note di John Lennon. And the world.